L'amore di Dio è sempre stato uno dei miei argomenti preferiti. E, certamente, non solo mio. Quando considero come l'Eterno Dio si è comportato prima con tutte le nazioni e poi con il popolo di Israele, rimango a bocca aperta per la meraviglia. Così è scritto nel libro di Dio, certo egli ama i popoli. Deuteronomio 33, 3. Dunque, l'Eterno ama tutti i popoli e come dimostrazione del suo amore ha fatto loro del bene, dando la pioggia e il sole, il cibo, la salute e il sorriso. Molto probabilmente non facciamo caso a questi eventi perché sono giornalieri, ma il Creatore poteva anche decidere diversamente in merito alle nazioni. Avrebbe potuto dare la pioggia o il sole solo in alcune parti della terra, oppure stabilire che solo alcune razze conoscessero il sorriso. Perché diventa obbligo ciò che è normale, ma a coloro che ha scelto diede qualcosa di più. Certo, egli ama i popoli. Tutti i suoi santi sono nelle tue mani, essi siedono ai tuoi piedi, ciascuno riceve le tue parole. Deuteronomio 33, 3. Dunque verso il popolo di Israele l'Eterno ha avuto un amore particolare, gli ha concesso di udire la sua volontà e di ascoltare le sue rivelazioni. Non soddisfatto, l'Eterno ha espresso il suo amore in un modo ancora più meraviglioso, come leggiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7. Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio, l'Eterno. Il tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Israele è stato scelto dall'Eterno. L'elezione di Israele come popolo è stato un atto d'amore senza uguali. La terra era popolata da molti popoli più grandi, più numerosi, ma fra tutti la scelta è caduta su Israele, un popolo che in quel momento era oppresso da più di 400 anni. Un popolo che non era popolo, una nazione che non era nazione. Israele era costituito da milioni di persone, il cui scopo era solo quello di sopravvivere, di servire una nazione ambiziosa e senza pietà, a costo della propria vita. L'Eterno si è scelto un simile popolo tra i popoli, per poter avere con questo un rapporto unico, perché potesse conoscere il suo Creatore, perché fosse partecipe dei suoi misteri. L'Eterno non era in obbligo di rivelarsi alla sua creatura e soprattutto ad Israele, ma decise con un atto di amore di farlo partecipe della sua gloria. Perché questa elezione non fosse ragione di orgoglio, l'Eterno Dio continua con il dire: «L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi né vi ha scelto, perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché l'Eterno vi ama». Deuteronomio 7, 7 a 8. L'Eterno vi ha scelti non perché avevate qualcosa di amabile, ma perché vi ama. Non vi è messaggio più grande e più importante per una creatura. Sapere di essere amati, sapere di essere amati da Dio. E già una cosa meravigliosa sapere di essere amati da un proprio simile, ma se si è coscienti di essere amati dall'essere più importante e più grande, il Re dei Re, allora non vi sono parole per esprimere la gioia che produce tale notizia al nostro cuore. Lo stesso messaggio lo diede anche Gesù ai suoi discepoli. Non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama. Giovanni 16, 26-27. Questo messaggio è stata la dinamite per trasformare dei codardi in eroi, che hanno sfidato e vinto la paura della morte. Ma il popolo dell'Eterno, quella nazione che Dio è andato a prendere per sé di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con grandi terrori, Deuteronomio 4:34, come una donna è infedele al proprio marito, così Israele è stato infedele al suo Salvatore, Geremia 3:20. Israele ha rivolto il suo cuore indietro, i suoi passi si sono allontanati dalla via dell'Eterno, Salmo 44:18, rivolgendosi ad altre divinità, servendo divinità che non esistono, al punto che l'Eterno ha esternato il suo dolore. Ma se non ascoltate questo, l'anima mia piangerà in segreto a motivo del vostro orgoglio. I miei occhi piangeranno dirottamente e si scioglieranno in lacrime, perché il gregge dell'Eterno sarà condotto in cattività. Geremia 13 e 17. L'Eterno era disgustato della condotta del suo popolo, dolorosamente colpito nel suo intimo dall'orgoglio di Israele. Impotente a guarire un cuore che non voleva essere guarito, aveva come prospettiva espresso il suo dolore con il pianto. Un'espressione questa, ritenuta certamente antropomorfica, senza realtà, ma Gesù Cristo, la divinità di Israele, fu un uomo di dolori e pianse dolorosamente su Gerusalemme. Sì, perché l'amore per sua natura non usa la forza. L'amore per persuadere non conosce altro mezzo che il sacrificio, il dolore di non essere creduto, il dolore che può andare fino al limite, fino alla morte. Non riuscendo a farsi credere, la morte è l'ultimo limite dell'amore. Ed ecco che davanti a tanta ostinatezza da parte del suo popolo, l'Eterno avanza un'altra ragione del suo amore. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi né vi ha scelto, perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Deuteronomio 7, 7 a 8. Ad Israele, l'Eterno non ha addotto come unica ragione del suo amore la propria volontà di fargli del bene, ma ha avanzato anche la ragione del proprio rispetto verso il patto fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Poiché Israele fino a quel momento aveva dimostrato di disprezzare l'amore di Dio, aveva dimostrato di non apprezzare la scelta fatta di essere un tesoro particolare, così l'Eterno ha fatto partecipe al popolo la motivazione per la quale egli continua ad insistere con il suo amore, la sua fedeltà. Dunque, non era propriamente per amore che ora agiva a favore del popolo, ma solo per mantenere fede ad un patto. Ma il popolo di Dio ha fatto orecchi da mercante e non ha voluto ascoltare, e così l'Eterno ha agito diversamente. Così dice il Signore l'Eterno: io agisco così non a motivo di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio santo nome, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio grande nome profanato fra le nazioni che avete profanato nel loro mezzo. Le nazioni riconosceranno che io sono l'Eterno, dice il Signore. L'Eterno, quando sarò santificato in voi davanti ai loro occhi, vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti, e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il frumento, lo farò abbondare e non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non subiate più il vituperio della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone, e diventerete ripugnanti ai vostri stessi occhi per le vostre iniquità e le vostre abominazioni. Non è per amore di voi che io opero, dice il Signore l'Eterno, sappiatelo bene. Vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Ezechiele 36, 22-31. Forse siamo abituati a leggere la parola di Dio con leggerezza, ma ciò che l'Eterno dice al popolo, tramite il profeta Ezechiele, è molto pesante. Le ragioni dell'amore adotte dall'Eterno per amore del suo popolo andavano talmente scemando che ad un dato momento, sempre per amore, non ha più agito per amore di loro. L'Eterno ha amato il popolo perché lui è amore, lo ha amato perché ha deciso di amarlo, lo ha amato non perché avesse qualche virtù o lode, ma nonostante ciò, il popolo è rimasto insensibile. Allora l'Eterno lo ha amato solo per mantenere fede ad un patto. Ma neppure così il popolo è stato toccato nel suo cuore. Così, vista persa la partita, considerato che Per qualsiasi motivo egli amasse Israele, il popolo continuava a rivolgersi ad altre divinità inesistenti, allora l'Eterno ha avanzato un'ultima ragione, ma veramente ultima, per fare del bene ad Israele. Non a motivo di voi, ma per amore del mio santo nome. Queste parole hanno inciso profondamente il mio cuore. Il rapporto d'amore che ha avuto l'Eterno con il popolo di Israele è simile al rapporto esistente fra gli esseri umani. Si ama il prossimo perché Dio ha donato questa capacità a tutti. È vero che l'amore naturale è imperfetto e incompleto, perché Gesù disse: se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Ma rimane comunque amore. In seguito, i rapporti possono diventare difficili, perciò questi non si mantengono per un amore spontaneo, ma per rimanere fermi a dei patti stabiliti precedentemente. Se infine le relazioni subiscono profondi traumi al punto da provare il desiderio di ignorare la persona amata, di abbandonare il campo di battaglia, di voler chiudere una volta per sempre, l'amore ha un'ultima alternativa per amare chi non è degno di essere amato, e cioè fargli del bene non per amor suo o mantenere fede a un patto, ma per onorare il nome di Dio. Dopo più di 40 anni di vita cristiana posso testimoniare con forza che questi tre passaggi dell'amore sono inevitabili per ogni credente e che la conclusione alla quale è arrivato l'Eterno è la stessa alla quale è obbligato arrivare prima o poi ogni figlio di Dio. Per riuscire a continuare ostinatamente a voler fare del bene al prossimo o alla persona più cara, non per amore in quanto tale secondo il comune concetto attribuito a questo termine, ma perché amare significa, nel suo contenuto più intrinseco, onorare la volontà di Dio. È un traguardo a cui pochi arrivano. Chi ama è come una rugiada mandata dall'Eterno, come una fitta pioggia sull'erba, che non aspetta l'uomo e non spera nulla dei figli degli uomini. Michea 5:7. Opera senza sperare, né volere alcun contraccambio. Chi agisce con questa ultima motivazione esprime l'amore a senso unico. Scopre una gioia inesprimibile che non è di questo mondo, perché arriva ad essere perfetto, cioè completo, come lo è il Padre Celeste. Matteo 5:48. Dicembre 2004. Ellero.